5H. Ascolta e trasforma. Che cosa state facendo? Che cosa fate? Che cosa stanno dicendo? Che cosa dite? Che cosa stai bevendo? Che cosa bevi? Che cosa sta traducendo? Che cosa traduce? Che cosa state riponendo? Che cosa riponete? Che cosa state introducendo? Che cosa introducete? Che cosa state proponendo? Che cosa proponete? Che cosa state predisponendo? Che cosa predisponete?